mattino. Progetti che verranno presentati per fruire del Recovery Fund dovrebbero essere tutti commissariati, perché solo attraverso un commissario riusciremo a portare a termine questi progetti e soprattutto ad avere i soldi. Una delle cose che potrebbero capitare e che non si è detto è che potrebbe essere mandata a casa mia figlia da scuola per un'influenza stagionale, perché queste continueranno ad esserci, e per precauzione verrà messa in quarantena sicuramente tutta la famiglia e magari anche tutta la classe. Quindi in un attimo, secondo me, le scuole purtroppo si risvuoteranno. Noi credo che risolveremo i problemi dell'edilizia scolastica quando si interverrà e si dirà che le scuole sono enti autonomi al 100%, esattamente come le università, e i presidi non dovranno più dipendere da sindaci o da presidenti di provincia senza soldi per ristrutturare le loro scuole. Lavoro in una scuola dove stamattina andiamo e ci sono 5 cantieri aperti. Come facciamo a mandare in classe 63 classi in queste condizioni? Le vostre testimonianze, se volete, ancora al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Il tema dell'autonomia è un grande, grande, grande tema. Già lo dicevamo in merito all'apertura, per carità è una mia opinione, vale per quel che vale, però piuttosto invece di avere questa confusione, non sapendo chi riesce a riaprire e quando, forse sarebbe stato meglio dire alle scuole: ok, su questo, ragazzi, vi diamo autonomia, i plessi scolastici più moderni, quelli che hanno più spazi, quelli che hanno meno iscritti possono partire se vogliono anche il 7 di settembre, e gli altri si prendano il tempo che si devono prendere. Farla con un po' più di libertà per le scuole. È un'opinione, quindi prendetela per quello che è. Magari sbaglio, non è un'opinione da tecnico, però l'impressione è un po' questa. Al secondo ascoltatore, questa è una risposta importante: no, non è così, non è così, non ti mettono in isolamento se tuo figlio o tua figlia ha l'influenza. Prima devono accertare che sia positivo al Covid-19. Non si svuotano le scuole in questo modo. Se poi tuo figlio o tua figlia ha sintomi influenzali e lo mandi a scuola, questa è un po' responsabilità tua. E poi il primo ascoltatore: commissari ovunque, commissari ovunque, perché questo paese non sa, una volta varati i progetti, come portarli a termine. Quindi commissari ovunque, non lo so che cosa ne pensate, non ho un'idea precisa, mi sembra un po' eccessivo in tutta sincerità, però è là la proposta del nostro ascoltatore. È la seconda parte di 24 mattino, è giovedì 10 settembre ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti e 20 secondi, al microfono sempre Simone Spezia. E i titoli dei giornali sono vari oggi. La Repubblica, per esempio, ci parla del vaccino, ne abbiamo parlato ieri mattina alle 6:45, a dire il vero, virus gelo sul vaccino, il volontario si ammala, lo stop alla sperimentazione del farmaco italo-inglese, si rischia un ritardo di 6 mesi, ci fa sapere il quotidiano, che a centro pagina dedica la fotonotizia a quello che succede a Lesbo, dove è bruciato il campo profughi di Moria, 12.000 profughi in fuga. Il Fatto Quotidiano si dedica a quella che definisce la sinistra per Salvini a sua insaputa. Chi dà addosso ai cosiddetti giallo-rosa? Saviano che insulta Zinga per il sì del PD. Ma sono tantissimi politici e giornali progressisti che sparano su quello che il Fatto Quotidiano definisce l'unico argine alle destre. E ci sono un po' di foto. Un paio di quotidiani si dedicano all'aggressione di ieri a Matteo Salvini a Pontassieve. Ne abbiamo parlato poco fa con Agnese Pini e vi abbiamo fatto sentire anche l'audio. Salvini aggredito da una nera è il titolo di Libero. Il giornale: la sinistra ce l'ha fatta, Salvini picchiato, una congolese aggredisce il leader, strappati camicia e rosario. Il Messaggero apre con un'intervista a Francesco Boccia, al ministro, i fondi europei per colmare le differenze tra nord e sud, basta divari tra regioni, è il titolo dell'intervista. Su sanità e istruzione garantiremo i diritti di tutti, non ci saranno vincoli di bilancio. Il Corriere della Sera, il Quotidiano Nazionale e La Stampa scelgono invece la scuola. Conte ai presidi, si parte il 14, il Corriere della Sera. Caos scuola, no di Conte al rinvio, il Quotidiano Nazionale. Conte scuole al via il 14, ma i presidi si ribellano, è il titolo della Stampa. Il Secolo XIX con un taglio più locale, ambulatori e tamponi, le misure della Liguria in caso di virus a scuola. E il Sole 24 Ore si dedica invece alla sfida degli agnelli, entra la quinta generazione, il riassetto in famiglia. Infine il Manifesto, che ho tenuto un attimo da parte perché lo useremo poi per la cronaca di quello che è successo a Lesbo, il gioco di parole sul nome del campo e su una parola italiana, e quindi lo leggo come lo leggeremmo in italiano: Moria d'Europa. Però il campo è il campo di Moria, quindi il gioco di parole è tutto là. Un incendio distrugge nella notte il campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo, migliaia di sfollati. Dietro il rogo ci potrebbero essere proteste contro le misure sempre più restrittive per l'emergenza Covid. La verità, infine, l'Europa regala 3,4 miliardi alle ONG, ma nessuno sa come li spendono. Da cosa iniziamo oggi? Andremo sulla politica, ovviamente, andremo sulla scuola e ci occuperemo di tutto questo. Però vorrei iniziare da questo tema di discussione che aprono un po' tutti i quotidiani e che c'è oggettivamente, è il tema dell'ingresso di quello che qualcuno definisce il politicamente corretto nell'Academy agli Oscar. Addirittura il Quotidiano Nazionale ci fa la foto notizia di prima pagina molto forte e ci dedica un pezzo e un'intervista a Pupi Avati. Siamo a pagina 9 con Giampaolo Pioli da New York, il quale ci racconta appunto che l'Academy richiede nuovi standard, minoranze etniche protagoniste, oppure nel cast il 30% di donne LGBT o disabili. Dopo averci pensato per mesi, i saggi dell'Academy of Motion Pictures hanno fatto uscire dal cilindro una proposta per l'edizione del 2024, nella quale una pellicola per concorrere all'Oscar come miglior film deve contenere almeno un attore protagonista appartenente a una minoranza etnica, oppure in alternativa il 30% dell'intero cast deve essere composto da donne, LGBT e disabili. Gli sceneggiatori dovranno scrivere storie molto più articolate che comprendano tutti questi gruppi sociali come riflesso di una società globale molto variegata, interattiva e non discriminante, e dovrà riflettersi non solo tra i protagonisti davanti alla macchina da presa, ma anche nel pubblico in sala. Se qualcuno accusò gli Oscar di essere troppo bianchi negli anni scorsi, adesso c'è stato il ribaltamento della prospettiva. Un film dovrà rispondere appunto ad almeno 2 su 4 standard applicabili sia davanti alla macchina da presa che dietro le quinte. E quindi ecco l'appartenenza di almeno uno degli attori protagonisti a minoranze etniche, o in alternativa il 30% dovrà essere composto da donne LGBT e minoranze e disabili. A partire dal 2022 e di nuovo nel 2023, ogni candidatura a miglior film dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione degli standard. Chissà com'è, dite se volete che cosa ne pensate, sempre al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio. Pupi Avati ne pensa male, che devo dire, mi sembra un'idea folle quella dei signori dell'Academy, dice Pupi Avati, regista bolognese, nell'intervista di Giovanni Bogani, che lo definisce il maestro del chiaroscuro emotivo, il pittore dello struggimento e della malinconia in film come Regalo di Natale o Festa di Laurea. E dunque non bastava il Covid a creare ostacoli enormi alla creatività e alla vita di tutti, adesso per queste regole, per poter essere eleggibili agli Oscar, creeranno un cinema peggiore. La creatività è libera. Questi schematismi sono la morte della creatività, dice Pupi Avati. Ci si mette anche il foglio con Giulio Meotti, che si intitola non a caso La notte degli Oscar. Alcune delle pellicole che in questi anni hanno vinto l'Oscar come miglior film nel 2024 potrebbero essere chiamate a restituire l'ambita statuetta. Chiaramente quello di Giulio Meotti è un gioco, non saranno chiamate a restituire la statuetta, però è un modo per infilare tutti i film che non rispondono a questi nuovi standard dell'Academy. Il caso Spotlight, Il discorso del re, Non è un paese per vecchi, Il gladiatore, A Beautiful Mind, American Beauty, Titanic, Braveheart, Il paziente inglese, Il silenzio degli innocenti, Schindler's List. Questo per andare indietro solo agli anni 90, non si salveranno certo Ben-Hur, Il cacciatore, Il padrino. In questi film non ci sono protagonisti di colore, spesso neanche in ruoli secondari, né ci sono quote riservate alla comunità LGBT. Ovviamente non accadrà niente di tutto questo, anche se proprio appunto il 2004 è l'anno che l'Academy ha scelto per far entrare in vigore queste nuove regole per candidarsi a miglior film. Come capite, anche questo diventa, come ovvio, un tema di discussione. Altre due cose prima di andare alla pausa, e sono cose più strettamente italiane. Che vogliamo fare? Ce le riserviamo per dopo, Peter Bescapè? Dai, riserviamocele per dopo. A tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. 11 milioni di mascherine chirurgiche che notoriamente si usano solo per 24 ore, ma la scuola non dura fino a giugno. Io lavoro nel settore privato come dipendente, ho preso cassa integrazione di marzo ed aprile e siamo a metà settembre. C'è una disparità incredibile in questo paese tra pubblico e privato. I lavoratori del settore pubblico non hanno perso un'ora di lavoro, hanno mille tutele. Il privato è lasciato a se stesso. Volevo dire a Giuseppe Conte che noi abbiamo fatto la riunione ieri con maestre e dirigenti, le mascherine le dobbiamo portare noi perché loro a disposizione non le hanno. Comunque non è il problema della mascherina. Il problema è tutte le normative che hanno messo e se avranno tempo di fare lezione rispettando tutte queste normative. È il grande tema questo della scuola, ci arriviamo tra un attimo, è il tema sul quale ci si gioca molto, come ricorda Lina Palmerini oggi sul Sole 24 Ore, in questo editoriale che si intitola La prima linea del Premier e il pungolo del Quirinale. Ci ricorda come ieri Giuseppe Conte si sia messo, ci abbia messo la faccia senza lasciar tutto sulle spalle della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Ci arriveremo tra un attimo, ma prima fatemi andare su due questioni molto italiane. La prima è quella sulla quale ci porta il Secolo XIX, che giustamente dal suo punto di vista locale ci racconta questo. Albiano, il modello Genova non abita qui. Voi ve lo ricorderete, ne parlammo l'8 aprile scorso. Per fortuna viene da dire in questo caso, c'era il lockdown e quindi su quel ponte passava poca gente, però il ponte di 10 metri sul fiume Magra, il ponte di 258 metri sul fiume Magra crollò rovinosamente e abbiamo tutti nella testa, perché l'immagine più o meno l'abbiamo vista, di questo ponte piegato su se stesso, collasso integrale della struttura, gestore l'ANAS, il commissario è il presidente della regione toscana Enrico Rossi, ci sono un commissario e un subcommissario. Ebbene, il modello Genova, ci racconta il Secolo XIX, non abita qui. 5 mesi dopo la stessa immagine di macerie ammassate, immobili a ricordare il disastro, ci dicono Tiziano Ivani e Roberto Sculli, ma i punti in comune tra i due ponti crollati si fermano qui. Per il Morandi erano stati sufficienti affinché lo Stato costruisse una macchina imponente capace di assegnare a fine 2018 i lavori di demolizione e costruzione del nuovo viadotto, mentre per quello di Albiano Magra, crollato l'8 aprile scorso sul confine tra Liguria e Toscana, non ci sono certezze. Non sappiamo ancora quando e come verrà ricostruito, non sappiamo molto neppure sulla realizzazione delle rampe provvisorie sulla 15 Parma La Spezia, puntualizza il sindaco di Aulla Roberto Valettini. E guardate che le immagini di oggi sono impressionanti, perché sono le stesse immagini di 5 mesi fa. Forse c'è passata un po' d'acqua sopra, forse le intemperie hanno modificato un po' la posizione delle macerie, però la situazione è sempre la stessa. Un'altra storia tipicamente italiana è quella sulla quale si sofferma Sergio Rizzo sulla Repubblica a pagina 11, ed è la storia di come i politici si riciclano nel momento nel quale vengono, con brutta espressione si dice, trombati alle elezioni. Consulenze, assessorati partecipate, il riciclaggio dei politici disoccupati. Porta molti nomi qua, ci sono anche le fotine: Filippo Nogarin, l'ex sindaco di Livorno, Andrea Gibelli, ex consigliere leghista, Giacomo Stucchi, ex deputato leghista. Può fare letteralmente miracoli in questo paese la politica, scrive Sergio Rizzo. Prendete uno come l'ingegnere grillino Filippo Nogarin, che un bel giorno chiude lo studio, si candida a sindaco di Livorno, sbaraglia gli avversari nella ex Roccaforte Rossa della Toscana, poi succede qualcosa. Non si ripresenta alle elezioni e a Livorno torna il centrosinistra. Racconta di essere diventato povero e che Luigi Di Maio gli ha fatto terra bruciata intorno. Proprio tutto però non si è bruciato. Se prima il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà gli dà un posto nel suo staff con 40.000 euro lordi l'anno, e poi il 28 agosto Nogarin si becca un'altra consulenza da 27.730 euro lordi dal Comune di Roma. Lo pagano per fare d'assistente a Gianni Lemmetti, ora assessore al bilancio del Campidoglio, ma che in precedenza era stato il suo assessore a Livorno. Il metodo più facile per i politici un tempo era piazzarli in una società pubblica, non che adesso non accada. Vedere alla voce Trifone Altieri, un politico pugliese di Forza Italia, socio di una cooperativa micologica e quindi che si occupa di funghi, e già capo ufficio stampa di un sottosegretario alla difesa. Dopo aver girovagato per la destra è rimasto folgorato da Matteo Salvini, che l'ha candidato alle ultime politiche. Trombato, è stato ripagato con la presidenza di Invimit, la società che gestisce la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Dai funghi al mattone di Stato, un salto nell'iperspazio. E ancora, Giacomo Stucchi, parlamentare per 22 anni, escluso dalle liste elettorali nel 2018, sconfitto da Gori nella corsa a sindaco di Bergamo, ora consulente del presidente della regione Fontana. Andrea Gibelli, ex presidente del Consiglio regionale, assunto come segretario generale dalla giunta di Roberto Maroni, e 2 anni dopo presidente di Ferrovie Nord Milano. E ancora, Roberto Speranza, che ingaggia come capo della segreteria politica Massimo Paolucci, ex eurodeputato del PD, traslocato a sinistra dopo la scissione con perdita del seggio a Strasburgo. Sempre l'esperienza poi deve aver condotto l'ex ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni, trombato alle ultime politiche nel collegio uninominale di Viterbo, a occupare il posto di consigliere del ministro della difesa Lorenzo Guerini. E questo è il racconto di Sergio Rizzo. La parte un po' più politica di questa rassegna, come vi dicevo, deve tener conto di una serie di cose. Vi dicevo innanzitutto la questione della scuola, che trovate un po' su tutte le pagine dei giornali, ovviamente, con questo Conte che si prende la scena e dice le scuole devono riaprire il 14. E qua Lina Palmerini nella sua rubrica quotidiana sul Sole 24 Ore, Politica 2.0, a pagina 7, ci porta esattamente su questo. E ci dice, Conte a questo punto si prende la scena e si carica la questione sulle sue spalle. È un'operazione ovviamente non esente da rischi. Dice Lina Palmerini, molte cose non tornavano nella conferenza stampa di ieri, a partire dai numeri sugli insegnanti, le cattedre vacanti, dai banchi consegnati e in arrivo fino alla procedura per i contagiati, si vedrà. Ma intanto Conte ha accettato la sfida, caricandola anche su di sé, e ha fatto fare un salto di qualità all'istruzione, che non è relegata alla competenza della ministra titolare, ma diventa una priorità politica per l'esecutivo. Un cambio di registro su cui sembra abbiano influito le spinte e soprattutto la preoccupazione di Sergio Mattarella, che lunedì prossimo sarà a Vo all'inaugurazione dell'anno scolastico insieme a Lazzolina. Senza dubbio il capo dello Stato ha offerto in queste ultime settimane un aiuto, ma contestualmente ha vigilato sulle fasi di preparazione. Del ritorno ai banchi ha dato a tratti un forte pungolo al governo, come raccontano i suoi collaboratori. Del resto, dicono al Colle, la scuola rappresenta un interesse nazionale, il primo tassello sul quale poggia uno Stato e sul quale si sviluppano società coese e competitive. Per Conte però la partita ha più implicazioni sul suo gradimento, come si diceva, e sull'impatto che la riapertura avrà nella sfida delle regionali. Ieri ha escluso rimpasti, ma è una risposta di circostanza, scrive Lina Palmerini. I conti si faranno dopo il voto ed eventualmente l'impasto non sarà su un nome, ma potrebbe riguardare più caselle. E un nuovo assetto complessivo se le urne deluderanno. Cosa ancora sulla scuola? Direi sicuramente questa pagina della cronaca, delle cronache del Messaggero, che ci porta sul fronte locale, però ci dà un'idea di quello che sta succedendo sul territorio. E anzi, ve lo ripeto come vi ho detto prima, se volete mandare la vostra testimonianza su questo c'è il 349-238-6666. E a partire dalle 8, se volete intervenire, c'è l'800-2400-24 per intervenire in diretta su questo. E se volete, ovviamente, anche sul tema degli Oscar che vi ho sottoposto prima, ebbene, il Mauro Evangelisti, a pagina 3 del Messaggero, ci porta su quello che succede nel Lazio. Il 20% delle scuole non riapre, il 20%, Il 20%, un quinto delle scuole non riapre. E le famiglie sono senza notizie, mancano insegnanti, banchi e dispositivi di protezione. Molti comuni andranno verso la deroga. A Roma decideranno i singoli presidi. A Latina e provincia ci sono punte del 90% di scuole che non riapriranno il 14 e quindi riapriranno un po' più tardi. A proposito di politica, oggi tra l'altro torneremo sul referendum e lo faremo con la posizione di Forza Italia. Ieri abbiamo ospitato quella del Partito Democratico. Vi voglio segnalare quest'intervista di Roberto Saviano a pagina 7 della Stampa. Ci parla Francesca Schianchi con lui. Ieri vi abbiamo raccontato con Paolo Mieri di quanto era stato brutale Roberto Saviano su Nicola Zingaretti, no? Dice Saviano... Perché, gli chiede Schianchi, non ha mandato a quel paese platealmente Zingaretti il PD? Perché non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni, prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini, indignandosi quando sono all'opposizione e lasciando tutto immutato per meglio gestire il potere quando sono al governo. È politica questa? A me pare arte della sopravvivenza. Ha parlato di bugie del PD, a quali si riferisce? La prima e più grande è l'inversione di rotta sulle politiche migratorie. Il dramma libico è talmente enorme che solo la storia potrà renderne giustizia, dice Saviano. Insomma, è offensivo parlare del nulla mentre sull'altra sponda del Mediterraneo la gente soffre le pene dell'inferno. Questo è il problema principale di Zingaretti. Mostra grande determinazione sulle cazzate, e si defila sulle questioni fondamentali. Scusate perché non sono parole mie, ma sono parole di Saviano. Vi segnalo anche una presa di posizione abbastanza curiosa, cioè curioso il personaggio, la presa di posizione del personaggio. Siamo a pagina 8 del quotidiano La Repubblica, il quale quotidiano La Repubblica con Concetto Vecchio intervista Billy Costa Curta sul referendum. È così ragazzi. Voto contro, non voglio assistere al trionfo di Di Maio. È l'intervista che trovate appunto a pagina 8 del quotidiano La Repubblica. Non voglio vedere le facce di Di Maio e Toninelli trionfanti, dice Billy Costa Curta. Un no politico? Penso che la riforma del taglio dei parlamentari abbia al suo interno cose buone, ma anche molte non condivisibili. Tuttavia, non è una riforma epocale. Non cambia le nostre vite. Nella sua cerchia, come si schierano, non frequento né fondamentalisti di sinistra né di destra. Le opinioni sono più o meno divise. Billy Costa Curta, Dixit, Traffico. Quattro mattino. Ed eccoci nella parte finale della rassegna stampa, il giovedì come sempre con il nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Eccoci qua con il Sole 24 Ore che oggi tra l'altro presenta la guida ai master dopo la laurea, come scegliere il master dopo la laurea e trovare lavoro insieme al quotidiano. Partirei in realtà non dal titolo di apertura vostro, Fabio, ma dal titolo di centropagina, che è un po' sempre lo specchio di un grande problema italiano. In questo caso è il decreto semplificazioni con Antonello Cherchi. Siamo a pagina 2. Cosa apprendiamo? Che il decreto semplificazioni in realtà complicato, perché le norme attuative, leggo dal titolo, salgono da 39 a 64. Questo dei provvedimenti attuativi è veramente un grande problema, hai fatto bene a definirlo così, perché qui la produzione di provvedimenti da parte del governo, di decreti negli ultimi mesi è stata davvero significativa. Il problema è che questi decreti, una volta che vengono approvati, poi devono avere le gambe su cui marciare, e qui casca l'asino. Nel caso del decreto semplificazioni è particolarmente clamoroso, perché si parte con un principio assolutamente accettabile, quello che tutti gli italiani aspettano, e cioè le semplificazioni di un quadro normativo che non se ne può più, talmente complicato, e poi si va a parare su 64 provvedimenti attuativi. Beato chi ci capisca qualcosa. Il problema è che poi questi provvedimenti attuativi in buona parte è difficile approvarli, per cui non arrivano. Questo almeno è la situazione che si è creata finora. Incrociamo le dita perché un decreto semplificazioni che si blocca perché non vengono approvati i provvedimenti attuativi, o si blocca almeno in parte, è il cane che si morde la coda. Fabio, ti porterei sul tema centrale di queste ore, quello sul quale poi andremo alla prova, il governo andrà alla prova lunedì, che è la scuola. Anche oggi dedichiamo delle pagine a questo. C'è il Presidente del Consiglio, dice che la scuola riparte, 11 milioni di mascherine al giorno agli studenti. Le due grandi prove sono questo e il recovery plan, del quale ieri sono state presentate le linee guida, no? Sulla scuola mi viene da fare una battuta forse scontata, ma è certamente un po' amara, ricordando il titolo del famoso libro "Io speriamo che me la cavo". Ecco, incrociamo le dita. Per il governo sarà una prova piuttosto difficile, io penso. Sicuramente. La verità è che io non entro nel merito, è fuori discussione che siano momenti difficili, che la pandemia è un unicum, che non è facile guidare il paese in queste condizioni. Quello che però un po' mi irrita è perché abbiamo cominciato a dire che bisognava prepararsi per tempo alla partenza della scuola in marzo, e in particolare Radio 24 ne ha fatto un cavallo di battaglia, e purtroppo credo che i ritardi siano stati piuttosto clamorosi, ed è questo un po' sì, l'aspetto inaccettabile. Dopodiché è chiaro che la questione è complicata, è altrettanto evidente che i ritardi sono clamorosi. Per l'appunto, io speriamo che me la cavo. Sì, l'altra grande prova è il recovery plan. Oggi avremo tra l'altro ospite il ministro agli affari europei, Enzo Amendola, che presiede il comitato che si deve occupare esattamente di questo, ossia del piano per ottenere i famosi fondi europei, quei famosi 209 miliardi. Ieri sono state presentate le linee guida. Abbiamo appreso in realtà da quel che abbiamo letto nei giorni scorsi, tanto sul quotidiano, tanto sul Sole 24 Ore, quanto dalle parole poi di ieri dello stesso Presidente del Consiglio, che questo ritardo che inizialmente era stato denunciato sulla presentazione del piano non è un grandissimo ritardo, perché in realtà appunto i soldi arriveranno dall'anno prossimo, c'è ampiamente tempo fino a gennaio per presentare i progetti. Ieri appunto sono arrivate le linee guida, Fabio. Sì, la tabella di marcia dice quello che hai appena ricordato, resta il fatto che altri paesi, per esempio la Francia, abbiamo un problema di connessione con arrivare in ritardo. E una seconda domanda che gli farei è: perdona Fabio, abbiamo perso la prima domanda perché è andata via la linea per un attimo. La prima domanda è secca: la tabella di marcia sta venendo rispettata, però altri paesi europei sono molto più avanti, noi siamo già in ritardo, e puoi fargli l'esempio della Francia. La seconda domanda secca è: l'Italia è il paese dei mille campanili, non rischia di diventare il paese dei mille progetti? Sì, il grande tema il rischio dell'assalto alla diligenza, sì. Cioè, campanili, mille progetti. Abbiamo dei problemi di connessione con il nostro direttore Fabio Tamburini, che ringrazio e saluto e che ritroviamo giovedì prossimo nel nostro consueto appuntamento. E dato che mi rimane un minuto, molti ascoltatori hanno scritto, quando abbiamo letto l'intervista sul referendum a Billy Costa Curta, hanno detto: ma perché minimizzate, sorridete, perché minimizzi, sorridi, ironizzi sull'intervista a Billy Costa Curta? Ma semplicemente perché ovviamente un privato cittadino non è né un costituzionalista né un politico, mi incuriosiva il peso dato a questa opinione, punto e basta. Poi naturalmente ognuno è libero di dire quello che vuole, ogni calciatore, ex calciatore, commentatore di Sky è libero di dire naturalmente tutto quello che vuole. Ci fermiamo, c'è GR24, se volete c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, messaggi su WhatsApp, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta, parlare anche con Paolo Mieli, tra poco, col quale vorrei partire proprio da questa vicenda dell'Academy, degli Oscar politicamente corretti, sapere che ne pensa uno come lui. GR.